in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno amici di CRM Happy Wake Up, qui con voi Patrizia Curreri, Buongiorno a tutti, anche per il secondo appuntamento quest'oggi io, Fabio Di Liberto. Buon risveglio e buon inizio di giornata. Buongiorno, è infatti una bella sveglia qui con noi con la bella musica di CRM Happy Radio. Ma non solo, infatti se vi collegate al sito www.crmhappyradio.it potete vedere la nostra bellissima costa di Cefalù, sì, bellissima. Sì, sì, e ascoltarci anche in streaming. Sì, yes. Oppure... altro modo per interagire con noi, sms al 335-5637-251 oppure telefonare allo 0921-923292 o ancora potrete scriverci su Facebook tramite la nostra pagina CRM Happy Radio e cliccare sul pulsante mi piace. Oggi il sole c'è, la temperatura è accettabile, sì, sì, sì. E quindi ci possiamo dedicare a questa giornata di primavera che ancora si attarda ad arrivare. Questa primavera per ora ha fatto un tempo orribile, sì, infatti diciamo così, non so come definire questo periodo, se è autunno o primavera, non si sa. Intanto aspettiamo con ansia quest'estate, intanto ci godiamo questa bellissima costa, il mare si sta calmando perché ieri proprio c'è stato un maestrale, da scirocco siamo passati al maestrale, quindi abbiamo una varietà di clima. Patrizia, qua in Sicilia. Vado preparata. Sì, sì, mi piace molto parlare del meteo. No, vabbè, anche ci sono molte persone, vedi su Facebook, che si interessano molto al meteo, hanno questa particolare propensione a guardare un po' le nuvole, spostarsi e definire un po' quello che succederà durante anche la settimana. Sì, c'è un sito qua proprio nostro, locale, che si occupa di meteo. meteocefalù.altervista.org. Ecco. Il signor avanzato Giovanni. Ben venga, ecco, visto, abbiamo scoperto. Un tizio che ha proprio una stazione meteorologica e si occupa proprio del nostro meteo di Cefalù. Quindi, se volete informarvi sul meteo di Cefalù, potete chiedere e potete andare al sito www.meteocefalù.altervista.org. Ok, abbiamo un Fabio preparatissimo oggi, questa mattina. E allora continuiamo, dobbiamo iniziare appunto con la musica, con la bellissima musica di CRM Happy Radio. E come non iniziare con i Fly Project? Dimmi il titolo. Back in My Life. Ecco, dai, svegliamoci con questa bellissima musica, che appunto sarà uno dei tormentoni come quello dell'anno scorso dei Fly Project. Musica, ti ricordi? E adesso magari c'è questo, sì, tormentone quest'estate. Sì. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me, I'll never be alone. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Questi erano gli Empire of the Sun, Alive, CRM, Happy Wake Up. E ora questa già iniziamo a capo di mattina, vuoi sol dire, a parlare di tecnologia, anche perché so che è il tuo campo, Fabio, sì, vero? Sì, un campo che mi appassiona da anni. Ecco, ma questa volta mettiamo insieme tecnologia e donna. Si sa che molti sono dell'opinione che come la donna accostata alla macchina non è un granché, così alla tecnologia... Mi hai anticipato, lo stavo per dire. Ecco, immaginavo, cosa che io sono un po' molto lontana da questo modo di pensare, non che sia solo donna, ma perché comunque mai stare ad ascoltare i pregiudizi, perché bisogna sempre vedere, magari ci sono pure donne che sono ancora più brave degli uomini in tecnologia, o come anche nelle macchine, quindi ci sono anche donne pilote, quindi... Assolutamente. Penso che lo sai meglio di me, che io non sono tanto informata, però ho sentito dire queste cose, quindi immagino che... Questa volta parliamo appunto della donna con lo smartphone, ormai è un prodotto in uso veramente... Indispensabile. Infatti, e quindi adesso vediamo comunque la donna come si rapporta a questo prodotto, quindi lo smartphone. Per 9 donne su 10 lo smartphone è un oggetto di uso quotidiano da impiegare sempre e dovunque. Il fatto di essere sempre connesse in molti casi semplifica la vita, anche se non manca qualche ricaduta negativa. Ad esempio, si è molto spesso ansiosi. Guarda un po'. Certo, infatti molti nel momento in cui dimenticano il cellulare in casa subito corrono indietro per andarlo a riprendere il primo io, non so tu. Sì, sta diventando veramente quello più importante della borsa, del portafoglio per giunta. Sì, quindi vedo, cavi. Ma vedo la cosa molto un po' grave, la vedo soprattutto sui ragazzini, su quelli che comunque devono impegnarsi anche nello studio, a maggior ragione, già sai, scuola media, e invece cosa fanno? Prediligono il telefonino che è naturalmente libri, cosa che comunque magari prima si guardava di più un po' la televisione, si impiegavano quell'oretta, quei 10 minuti a guardarsi la televisione, invece adesso tutto il tempo tra una lettura di un testo e l'altro c'è sempre il telefonino in mano, anche perché adesso appunto lo smartphone permette, è diventato un mini PC a ecco, tutti gli effetti. Ecco, quindi permette di collegarsi e quindi di stare sempre a contatto con amici e parenti e così via. E infatti da un'indagine condotta dal sito alfemminile.com, il sito dedicato al mondo femminile, si evince che l'87% delle donne utilizza quotidianamente lo smartphone e il 97% se ne serve ovunque e in ogni occasione. Veramente sono delle percentuali molto ma molto alte. Sì, infatti. E ce ne sono anche, cioè non è che ne hanno uno magari telefonino, ce ne sono tanti telefonini hanno a disposizione una marea. Meno diffuso invece il tablet, ne possiede uno solo il 36% del campione intervistato e tra questi uno su 5 è un iPad. Dimmi tu ora la differenza tra iPad e tablet, dai. Allora, diciamo che il tablet ma anche l'iPad è meno utilizzato, meglio, sono meno diffusi anche per la loro voluminosità, cioè lo smartphone comunque si aggira intorno ai pochi centimetri, il tablet 4 è pollici, più, 3 pollici, sì, circa 7 sì. pollici lì, è molto più ingombrante. L'iPad è quello di casa Apple, ovviamente. Il tablet generico ovviamente non avrà le stesse potenzialità, anche se comunque Samsung fa, diciamo, bei dispositivi. Sì, quindi è molto competitivo come appunto come azienda. E quindi vediamo questo uso crescente della tecnologia, che però bisogna stare attenti appunto alla dipendenza e a sua volta appunto creare ansie, appunto turbamenti vari, e anche diminuire le relazioni sociali. Anche quella se è una cosa negativa. Sì, infatti, anche se naturalmente stai a contatto con tutto il mondo, appunto con tutte le applicazioni WhatsApp, Viber e chi ne ha le voglia se ne le mette, però diminuisce pure i rapporti sociali faccia a faccia, sempre, naturalmente. Sempre un display sta ecco, infatti. Quindi dobbiamo stare attenti a questi dispositivi e usarli con moderazione, perché appunto sì, ci allontanano dallo stress, come dice qualcuno, però vabbè, stiamo attenti perché anche una passeggiata, una bella nuotata a mare, esagerare, ecco, ci libera dallo stress. Sul divano collassato, frate, passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano, poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh. Siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover, come a Adebayor, prima punta, numero 9. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. Antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio, pacco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amore. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Vado Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh, oh, oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Passo il tempo sul micro.

siamo in onda. Siamo in onda qui a CRM Happy Wake Up. Ti ho fatto una sorpresina. Perché stavo finendo la musica e dovevamo entrare. Ci quindi. E vabbè, quasi ci è venuto a trovare il nostro Peppe Carrozza, che l'altro giorno un po' abbiamo conosciuto virtualmente tramite messaggio. Esatto, magari abbiamo un po' spulciato sulla sua vita privata. Ecco, infatti, ricorderete il suo monologo per la sua amata. Sì, per la richiesta di matrimonio. Serena, sì, sì, ecco, sì. Infatti, salutiamo Serena, infatti. Ciao, per Serena, non lo so, inizierei subito con col dare, diciamo, la notizia riguardante il concorso nazionale ad ostacoli organizzato dalla famiglia Provenza. Che ne dici, Patrizia? Sì, perché infatti interessa questi tre giorni, venerdì, sabato e domenica. Questo weekend a Cefalù, se non avete niente che fare, amate gli animali, soprattutto i cavalli, potete venire qua a Cefalù e deliziarvi di questo bellissimo festival, primo concorso festival, concorso nazionale salto ad ostacoli. Esatto, allora l'evento verrà pubblicizzato a livello nazionale, come stava per dire Patrizia, nel settore equestre, e a livello regionale sia nel medesimo settore che anche in quello turistico. Affermandosi come attrattiva nuova e unica per gli sportivi e gli appassionati del settore, ma anche per tutti coloro che si troveranno lì di passaggio. Infatti il concorso prevede la presenza di circa 200 cavalli accompagnati da cavalieri e gruppi di amici. Quindi si prevedono almeno 2000 presenze solo tra partecipanti e addetti ai lavori. Diciamo che ci saranno altre attività oltre al concorso nazionale. Sì, infatti proprio sono previste appunto delle serate, sì, sì, sia nel venerdì e sabato, appunto con un DJ e musica dal vivo, poi spettacoli equestri, poi ci saranno appunto cavalli arabi, quindi di una certa razza, quindi abbastanza rarità, pregiati. Sì, infatti. Poi c'è il battesimo della sella, quindi per chi, bambini che vogliono avvicinarsi a toccare i cavalli oppure farsi un piccolo giretto, possono perfettamente appunto venire a Lungomare, perché ricordiamo appunto che il luogo del festival è a Lungomare di Cefalù, e quindi possono fare questo piccolo giretto sul cavallo. Poi magari venerdì potrebbero farsi oggi, un aperitivo con musica. Ecco, infatti musica poi, country. Sì, poi ci sarà quindi venerdì appunto oggi musica country alle ore 19:30. Invece domani sempre aperitivo, però con un'altra tipologia musicale. Musica jazz, per ognuno, per tutti i gusti, ecco, sì, sì, abbiamo tutti i gusti. E poi degustazione appunto di prodotti tipici, che appunto sono molto, ma molto buoni. Quindi andate a vedere il concorso nazionale. Ecco, stasera, domani e dopodomani, quindi siete tutti invitati a questa bellissima manifestazione organizzata appunto dalla famiglia Provenza. Ci saremo anche noi, tu ci sei? Spero di esserci, Patrizia. Dai, appunto, se non ci siamo noi cefaludesi, chi ci deve essere? Tanto comunque dei paesi limitrofi avremo pure una bella rappresentanza. Quindi dai, divertiamoci con la musica, ma soprattutto appunto anche con gli animali, con la natura, con gli animali, che appunto sono i nostri migliori amici, e loro sicuramente non ci tradiscono mai. E adesso continua la nostra musica di CRM Happy Wake Up con Jetty Rex. I see you. Bravo. You were never young, my love. I can tell not by the way that you smell, but by the way you move your tongue, my love. Somebody shake me. What can I do? Am I in love with the night? Am I in love with you? Will you take what I've got? Will we die on the spot? Too soon to say, what's your name anyway? You make me

questo era Neck, il grande Neck, con congiunzione astrale. Che congiunzione astrale hai, Fabio? Ma guarda, momentaneamente io sono ancora un po' in fase di collegamento. Ah, ok, ma ci credi a queste cose astrologiche, segni, ascendenti? Sinceramente no, perché ho una mentalità forse un po' troppo scientifica. E quindi... materialista. Sì, non sono un po' scettico su tutto ciò che è astratto. Ho capito. No, io invece ci credo, ma più che altro non al segno zodiacale di per sé, cioè la caratteristica legata al segno zodiacale, ma all'ascendente, che può dare qualche caratteristica alla personalità diversa, magari da ascendente a ascendente, ecco, in base all'orario in cui sei nato, magari appunto hai una caratteristica diversa, anche se magari noi due siamo leoni, per esempio, l'ascendente determina un po' le nostre differenze. Guarda, caratteriali. Io purtroppo tutto ciò che non è sperimentabile non credo. Niente. quindi se non vedi non credi. Credo, ok, esatto. Perfetto, un San Tommaso abbiamo, esatto. San Fabio, ecco, vabbè, dai, modifichiamo il nome, però è sempre quello il concetto, esatto. Dici questa notizia un po' curiosa che mi sta rovinando un idolo. Sì, esatto, una notizia diciamo culinaria. Riguarda le patatine fritte, sicuramente a tutti, diciamo tutti mangiano le patatine fritte, sicuramente. Ecco, sì. Ecco, le patatine fritte vennero ideate da uno chef statunitense, George Crumb, non per appagare il palato, ma piuttosto per una ripicca verso un cliente dispettoso del suo ristorante. Infatti si narra che intorno al 1853, in un ristorante di New York, un cliente rimandò indietro per 3 volte un piatto di patate che aveva appunto cucinato questo chef, perché ritenendo che non erano buone, non erano tagliate bene. E quindi lo chef, per vendicarsi, affettò le patate in maniera sottile e ordinò di farle friggere, ovviamente a forma di rispetto. Invece il cliente le trovò divine, infatti poi ci fu un boom di queste, diciamo, patatine fritte, che oggi sicuramente... mi pare ovvio. E sai una cosa? Sai una cosa? Che di solito appunto dicono che le patatine fritte sono ingrassanti, naturalmente, fritto. Certo. Però ho letto qualche volta fa, sempre in questo contesto, nel nostro programma, che praticamente le patatine fritte sono meno ingrassanti rispetto magari a verdure fritte, perché raccolgo meno olio, quindi assuppono meno olio, come so dire, ecco. E quindi hanno meno calorie, quindi si ingrassa di meno, quindi si possono mangiare le patatine fritte. Sì, ma sempre in quantità limitata. Vabbè, moderate, certo. Poi certo, dipende anche dalla tipologia di olio che si utilizza per friggere. Quello pure, certo. Se ovviamente poi usi olio, sempre lo stesso olio in varie fritture, soprattutto quello che fanno nei ristoranti, certo, un po' naturalmente ti rimane nella pancia e ti fa un po' ingrassare, ti vengono quei rotolini perché noi donne un po' odiamo abbastanza. Ecco, a prova costume le patatine fritte non vanno bene. Ecco, per la prova costume non sono assolutamente consigliate. Però è interessante questa notizia, appunto abbiamo scoperto come sono nate le patatine fritte, e ben venga che siano nate, furono inventate per dispetto, perché alla fine anche da un dispetto può nascere un'idea veramente creativa. Quindi continuiamo con la nostra musica. Adesso presentala tu, Fabio, questa qua. Hola, I'm in love. Ecco, perfetto. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love. She

like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Questo era il grande Pitbull, Feel This Moment, con la grande a sua volta Cristina Aguilera. Siamo qui a CRM Happy Wake Up, Patrizia Curreri e Fabio Di Liberto. Di nuovo buongiorno, magari c'è qualcuno che si sta svegliando. Sì, infatti dobbiamo ricordare che appunto grazie alla, alla nostra presenza sul web, quindi attraverso la pagina www.crmhappyradio.it, ci possono vedere da ogni dove. E infatti salutiamo quelli che ci stanno ascoltando anche dalla Calabria, dal negozio Naturale, che stanno lì ballando con la nostra musichetta che mettiamo ogni mattina e li svegliamo. Ciao agli amici calabresi. Ecco, ma oltre abbiamo anche chi ci ascolta da Torino. Sappi che mi ascolta, che di solito la mattina mi ascolta l'ufficio di i vigili urbani di Torino. Ah ok, mi raccomando, con le multe andiamo piano. Infatti, non so se oggi sono in collegamento con noi, però li salutiamo anche. Salutiamo anche chi ci ascolta oltre i confini italiani, perché c'è qualcuno che ci ascolta dalla Cina, dalla Germania, anche dall'America, appunto, perché ricordiamo i cefaludesi sono anche in America e ce ne sono abbastanza, e partecipano anche le nostre iniziative, alle nostre, quindi quando c'è la festa del Salvatore, pensa che appunto anche in America festeggiano quella giornata. Un quartiere a quanto pare cefaludese proprio. Sì, infatti, veramente per restare uniti anche nella lontananza. Ma noi adesso ci spostiamo a un altro argomento, ossia prima ti parlavo un po' anche dei segni zodiacali e quindi delle caratteristiche in base appunto ai nostri segni, ma c'è anche il colore che influenza molto il nostro modo di essere, soprattutto durante il sonno. E infatti c'è proprio una materia, o meglio ci sono anche delle persone che si interessano di abbinare i colori delle stanze naturalmente loro utilizzo. E per esempio nella stanza da letto è consigliato dipingere le pareti di blu. Perché il blu è alleato di sonni tranquilli, mentre il color caramello, che sia un marroncino chiaro, così, si accompagna a notti di intensa passione amorosa. Non andiamo oltre. Mentre il grigio induce allo shopping notturno. Quindi mariti, non dipingete mai di grigio le camere da letto. Infatti questa è una cosa abbastanza strana, non so chi lo fa di notte, magari sì, ma non so dormire. Cioè non il grigio e poi sogni di spendere soldi. Boh, magari spendono lì il tablet e l'iPad e si mettono lì a fare shopping mentre guardano la parete grigia. Comunque, insomma, la camera da letto incontra i colori e ciascuno ha un suo peso e un suo significato. Lo sostiene un curioso studio britannico. Sono fatti i britannici, ma anche gli americani, un po' a fare queste curiose indagini. Ed è realizzato dalla catena alberghiera Travelodge, coinvolgendo circa 2000 abitazioni. In base al risultato del sondaggio è emerso che il blu è la tonalità che è utilizzata più spesso nelle camere da letto, è il migliore alleato del riposo, di un lungo sonno tranquillo e di un risveglio sereno e positivo. Quindi chi vuole dormire e vuole dormire bene, bisogna che si faccia dipingere le proprie pareti della stanza da letto di blu. Il colore blu è infatti associato alla calma, aiuta a moderare la frequenza del battito cardiaco e aiuta a mantenere bassa la pressione sanguigna. Vedi un po' quante caratteristiche. Sì, però vorrei un colore. Sì, caratteristiche interessanti, ma c'è il color caramello. Ecco, sapevo che dovevo attirarti il color caramello. È anche costituito da alcune caratteristiche molto importanti. Infatti le coppie che hanno la stanza color caramello hanno un'attività sessuale più intensa della media. 3 volte a settimana. Addirittura, quindi... Quindi per chi vuole a sorpresa il rosso non sembra così amico della passione come magari si può credere. E infatti chi ha la camera di color rosso Sembra così, perché che cosa succede? Che le attività amorose si riducono a una volta un incontro a settimana. Quindi si misurano pure gli incontri in base al colore della camera da letto. In sintesi, cambiate il colore della vostra camera se volete migliorare le vostre performance. Ecco, non andiamo troppo nel particolare, perché ci ascoltano anche le mamme. Ecco, siamo attenti a non andare oltre nei particolari. Però devo dire che ha anche un buon effetto sul relax, e quindi si può dormire meglio se anche le camere da letto sono di color verde e giallo. E chi ha la stanza da letto invece dipinta di questi colori ha dichiarato di dormire in media 7 ore e 40 minuti. Sì, infatti. Sì, ci si riposa meglio. Un'ultima cosa per gli sportivi: il colore invece è l'argento. Perché sì, a quanto pare l'argento migliora le performance fisiche e sportive. Sì, infatti. E poi un'altra cosa, l'ultima cosa appunto, è per adesso appunto va di moda il colore viola. Quindi molti si fanno le camere di colore viola perché appunto il boom di questo colore. Invece è meglio evitarlo per il suo influsso sul cervello. E chi ha la stanza di questo colore dorme media 6 ore per notte. Quindi vedete un po' cosa può fare un colore nella nostra parete. Esatto. Quindi vedete un po', prendete un po' gli appunti, anche magari istruitevi un po' su internet e vedete un po' le risposte che avete. Ma adesso continuiamo con la nostra musica, e questa è Pink, Just Give Me a Reason. Bravo. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Bene, rieccoci con Happy Wake Up. Sono le 10.07 e vi ricordo che potete inviarci un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmhappyradio.it, oppure un SMS al 335 5637 251, o ancora telefonare allo 0921 923292, vi risponderà Patrizia, o ancora potete richiedere una canzone dal nostro sito web di Facebook crmhappyradio.it, cliccare sul tasto mi piace e quindi essere aggiornati sulle nostre sulla nostra programmazione, magari su alcune curiosità che noi andiamo dicendo durante il nostro programma. Inoltre ricordo che appunto potete riascoltare la puntata in podcast sul nostro sito e anche le repliche in serata. Bene, bene, sì, è così. Ora una piccola domanda. Quanti di voi si saranno chiesti almeno una volta nella propria vita di che morte morirò? Bene, con una spesa di $50,000, pochissimo, sì, devo sì, dire, sì, una spesa alla portata di tutti, è possibile saperlo. Ovvero, come ha fatto un professore di bioingegneria all'università di Stanford in California, esso diventò famoso appunto per essersi sottoposto al sequenziamento dell'intero DNA. Ovvero, tramite un'apposita mappatura di tutto il DNA, Quake ha scoperto un po' di cose, ma la cosa più stravolgente, diciamo, che ha scoperto tramite l'analisi del suo DNA è quello che esso, sarà soggetto ad una mutazione genetica rara legata al pericolo di morte cardiaca. In parole molto povere, dall'analisi del suo DNA è venuto fuori che il professore Quake morirà di infarto in maniera molto esplicita. Quindi, proprio già sa di che morte deve morire. Sì, sì, sì, sì. Quindi adesso diciamo, quanti di voi pensano che sia meglio lasciare al destino la propria vita? Secondo certo, uno è meglio secondo me non sapere di che morte dovrà morire e di quando dovrà morire, piuttosto che spendere $50,000 che adesso sono veramente dei soldini che naturalmente non tutti possono spendere, sia prima che adesso ancora a maggior ragione, e devo dire che è veramente una cosa alquanto bizzarra. Certo, lo possono permettere solo i miliardari, però dico, spenderli per sapere come si morirà. Sai, ci sono quei programmini, non so anche se l'hai visto su Facebook o tramite email oppure siti, dove ti fanno quel giochino: vuoi sapere quando dovrei morire? Sì, dovrei morire, ecco, a costo magari zero, quello a costo zero, un po' per divertirsi un poco, un po' per sapere chissà quando morirò, però nessuno lo può sapere, nessuno lo saprà, tutto sarà in mano al destino e per chi crede in Dio. Quindi è meglio così, lasciare tutto al destino, perché comunque il professore Quake sicuramente, se è ancora vivo, non si sa, non starà vivendo una vita serena. Certo, sapendo che prima o poi arriverà poi chissà quanta se è veramente appunto fattibile questo studio del DNA, quindi se è fattibile che veramente appunto attraverso lo studio del DNA si sappia veramente quando si dovrà morire, tutto perfetto. Cioè, non so se fino a che punto c'è una attendibilità tale da poter definire benissimo la morte e quando e come, quindi chissà. Sempre parliamo di cose scientifiche, però, sempre sì, sono più attendibili secondo il tuo pensiero, secondo il tuo modo di essere, ma secondo me c'è sempre un po' una... C'è sempre, sì, però dico, ecco. non sarà una cosa piacevole sapere che da un giorno all'altro arriverà un infarto a tagliarti proprio... Sì, infatti. La comunque vita. Se i nostri ascoltatori, se i nostri fan ci vogliono dire quello che pensano, magari darci pure una loro opinione, lo possono fare appunto ai numeri che hai detto poc'anzi, potendo inviare un SMS al 335 5637 251, telefonandolo 0921 92 32 92, quindi possono anche esporci la loro opinione, curiosità e così via. Quindi siete numerosi, noi siamo ancora qui con la nostra bellissima musica di CRM Happy Radio, e questa volta arriva Killer con un Baby K e Tiziano Ferro. Un po' c'è un confronto tra uomo e donna, sentiamo un po'. Senza trucchi, mi piace se li perdi tutti. Mi piaci anche senza nome, mi piace quando non si dorme. Mi piace soltanto se appesa al tuo braccio, affianco a te, il tuo oro e Cartier. Prendi pezzi di me, uno tira la.

dopo l'atmosfera latinoamericana di Takabroa, sì, ricomincia la nostra, continua la nostra mattina di CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Borreri, con Fabio Di Liberto. E Fabio Di Liberto in qua in compagnia, appunto, ci passa bene, ci passa il tempo chiacchierando tra una canzone e l'altra, e quindi ci allieta la mattinata, ci divertiamo nello stesso tempo, e spero che facciamo divertire pure voi svegliandovi. Sì, esattamente. Direi di indicare un appuntamento culturale qua, diciamo, nel nostro piccolo teatro comunale. Piccolo ma bello, direi. Sì, infatti, suggestivo. Esatto. Allora, arte, musica e cultura nelle Madonie, valorizzazione delle risorse nel territorio. L'appuntamento è per il 26 maggio alle ore 17:30, come già detto, presso il teatro comunale Cicero. Alle ore 17:30 cocktail di benvenuto offerto dal Pub Liris Club. Alle ore 18 i saluti del nostro sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Interverranno il professore Simplicio Giuseppe, l'ingegnere Luigi Trobia, il professor Augello Antonio Cernigliaro Luigi, vicepresidente dell'associazione Music in the Heart. Ok, poi alle ore 19 appunto contributo degli operatori nel campo dell'arte e della musica delle Madonie. Ore 19:30 mini concerto del gruppo musicale Divieto di Svolta. Infine ore 20:30 degustazione dei prodotti. Se mangia. Esattamente. Dopo un po' di, appunto, dopo prima il dovere e poi il piacere, quindi dopo appunto questi discorsi appunto sull'arte e sulla cultura delle Madonie, appunto poi ci sarà il contributo del Divieto di Svolta in un mini concerto preparato proprio da loro, e poi appunto la degustazione. Quindi si ringrazia il presidente dottor Giuseppe Matasse e anche l'organizzazione curata da Liberto Vincenzo. Quindi siete tutti invitati il giorno 26 maggio 2013, quindi domenica, magari tra una corsa di cavalli e l'altra, appunto siete invitati presso il teatro comunale Salvatore Cicero alle ore 17:30. Quindi vedete un po', organizzatevi, avete un fine settimana pieno, devo dire, qua c'è luce, veramente ci sono tanti eventi, e quindi potete venire già stasera, che appunto abbiamo questa concorso nazionale appunto dei cavalli con tanta animazione serale, quindi per i grandi e per i piccini, poi anche domani e anche domenica. E poi devo dire una cosa in anteprima, non te l'ho detto a te, le sorprese mi piacciono, sì, ecco, però lo devo dire in anteprima, appunto siamo i primi qua in radio, quindi chi è in ascolto apre le orecchie, mi raccomando, volume al massimo, perché lunedì pomeriggio dalle 17 dovete tutti collegarvi, dovete aprire il vostro televisore sul Rai Sport, sul canale Rai Sport, che mi sembra dipende dal canale 52, mi dicono 7. Stiamo dicendo i numeri, tombola. 7, canale 7. No, comunque va bene, Rai Sport 1, dove ci sarà il nostro sindaco invitato alla trasmissione 90 minuti presentata da Valeria Ciardiello e Enrico Variale, quindi giornalista, tutti entrambi giornalisti, che presenteranno un evento. Presenteranno la nostra bellissima città di Cefalù, parleranno appunto, ci sarà anche un presidente della Vela, non mi ricordo come si chiama, comunque il nostro sindaco, e presenteranno l'evento che si terrà qua a Cefalù il 14, il 15 e il 16 giugno, cioè Cefalù ospiterà l'evento I Borghi Marinari Più Belli d'Italia, e tra cui ci sarà anche una importantissima, quindi a livello nazionale, regata, e quindi potete partecipare anche a questo evento che verrà presentato, ricordiamo, lunedì 27 maggio su Rai Sport 1, e quindi saremo tutti là in attesa a vedere questa nostra bellissima, di nuovo, Cefalù anche nel il Rai, come ho visto, non so se avete visto, Fabio, hai visto tu la puntata di Mezzogiorno in Famiglia, mi ha fatto una bellissima figura, ecco, quindi la nostra Cefalù è anche sul Rai, quindi vediamo di fare una bella figura, sicuramente sarà tale, perché la bellezza di Cefalù è tale. Speriamo non si perda, Patrizia. Chi? Cefalù. Speriamo di no. Il paesaggio e l'ambiente comunque che ci circonda, le idee ci sono, la bellezza c'è, e quindi speriamo che anche la mentalità possa cambiare un po' di tutti, perché la mentalità è quella che un po' rovina la nostra città, devo dire, e quindi speriamo per il bene. Intanto abbiamo questi appuntamenti, li ricorderemo nel corso delle puntate, anche perché lunedì poi ci sarà appunto la nostra puntata, ricordiamo sempre dalle 9 alle 11, e continuiamo con la musica. Adesso Michael Bublé, It's a Beautiful Day. It's

siamo a CRM Happy Wake Up con Max Pezzali. Ci romanticizziamo un po', come dico io, l'universo tranne noi. Questo è il suo ultimo singolo, molto romantico, come è solito ormai Max Pezzali fare. Non so se ti ricordi i primordi degli 883. Sì, bellissimo, 883, indimenticabile, sì, sì, ormai sono da scenografia della nostra adolescenza, almeno penso io per la mia adolescenza. Concordo, ecco. Bellissimo, sì, sì, sì. E infatti continuiamo un punto con delle notizie. Sì, abbiamo parlato di DNA, abbiamo parlato un po' delle camere da letto. Questa volta invece donne in ascolto, soprattutto mamme, neo mamme, oppure coloro che magari sono in estate interessante, possono interessarsi di questa cosa, ossia che la danza del ventre aiuta per avere un parto naturale indolore. Bene. Certo, non è il tuo campo. No, Fabio. No, però sei molto, diciamo, preparata, penso. Quindi vai, vai. Vabbè, no, che ho avuto parti ancora fino adesso. Però, Dio vuole donna. In futuro. Ecco, però so che le nostre donne in ascolto, le nostre fan, magari possono essere interessate. Appunto, il nostro pubblico è magari mattiniero, prevalentemente donna, e quindi magari possono essere interessati a questo consiglio, a questa curiosità. E infatti, le movenze sensuali e ritmiche della danza del potrebbero aiutare le partorienti. I movimenti lenti e circolari che coinvolgono il bacino e la zona pelvica potrebbero favorire il parto naturale e il benessere fisico e psicologico delle donne in gravidanza. Il tema è oggetto del convegno l'altro parto dell'acqua e delle medicine complementari organizzato dall'azienda sanitaria di Firenze. Infatti durante questo convegno si è presentato appunto questo progetto, ossia che appunto la danza del ventre, spiega l'azienda sanitaria fiorentina, nella danza del ventre i muscoli addominali si tonificano e i colpi di anca insegnano alle donne a muovere il bacino in modo libero e naturale. I movimenti fluidi e circolari fortificano i muscoli e i tendini della regione pelvica possono attenuare i dolori preparto e quelli della colonna vertebrale ed aiutano ad ottenere una buona postura. Vedi quante caratteristiche può avere una semplice danza del ventre, che è veramente bella da vedere. Sì, infatti. Non puoi dire. C'è la bellissima Shakira da rappresentanza, che sappiamo come si muove ed è bellissimo vederlo, perché veramente appunto molto sensuale, molto fluida nei suoi movimenti, e devo dire forse sicuramente avrà partorito in maniera indolore. Sicuramente sappiamo che che da poco ha avuto il figlio del giocatore Piqué, penso che sia sì, e si chiama Milan il bambino, quindi si chiama Milan. Milan, sì. Milan, okay. Milan, non so, però da poco ha partorito e quindi chissà se anche lei può avere una testimonianza, può darci una testimonianza di questo fatto. Eventualmente, infatti, se Shakira vuole darci una testimonianza, può inviare un sms a 3355637251, chissà se ci sta ascoltando. Però grazie all'ispirazione e all'allenamento muscolare delicato, pensa, il bambino potrà nuotare e crescere in uno spazio rilassato e respirare insieme alla madre con continuità e circolarità. Veramente, veramente interessante. Una cosa curiosa che forse io non sapevo, quindi adesso lo so. Neanche io, se però sinceramente. Può essere che, dato che comunque è ottimo il movimento di anca, quindi sviluppare questo movimento di anca, penso che non ci sia solo la danza del ventre dedicata solo al movimento di anca. Ci sono anche altre attività fisiche che si potrebbero fare per favorire questo movimento di anca, che appunto a sua volta favorisce il parto. Quindi chi è nel mondo dello sport e sa come funzionano queste cose lo sa benissimo, lo potrà sapere benissimo e attuare con facilità. Ma adesso ci spostiamo nuovamente nella nostra musica, nell'ambito della nostra musica, e questa volta la nostra musica c'è Faludese. Sì, locale, musica locale con i nostri due nostri grandi DJ, Toti Caruso e Danny Valenziano, con Oh Mami Daddy. I've been around the world but never find the right girl. You want to call my sugar, you want to call my lover. I mean, the right one who can love me for who I am and love for what I got. Caruso Valentino, let's take this music to another level. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, eh. dai. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Ray Jepsen con Cammy Baby, ricordando la fantastica estate 2012 in prossimità appunto della nuova estate, con tante curiosità, tante comunque tormentoni in arrivo, e questo ricordo appunto le tormentone dell'anno scorso, indimenticabile appunto questa voce fresca e giovanile di questa bellissima cantante. Siamo in attesa del nuovo tormentone estivo. Sì, ma ce ne saranno parecchi, sì, come al solito, quando già si sentono in radio tante volte le solite canzoni che ti entrano in testa e non ti lasciano più. Quindi chissà, aspettiamo i tormentoni dell'estate 2013. In attesa di questo ci racconti qualche cosa. Sì, una piccola informazione. magari non tutti sanno il perché la musica house si chiama proprio house. Io secondo me la musica è fatta in casa, te ca- ecco. No, purtroppo non è così. Perché deriva da, dal nome di un locale, il Warehouse di Chicago, dove si esibiva il DJ newyorkese Frankie Knuckles, che appunto viene considerato il padre della house music. Knuckles e anche altri suoi colleghi furono i primi a introdurre la tecnica del mixaggio e infatti iniziarono a sperimentare nuove sonorità attraverso i sintetizzatori, attraverso registratori di vecchi brani. Appunto iniziò la tecnica del mixaggio da lì. Ecco, per questo e che... noi abbiamo studiato un po' il nostro corso di formazione radiofonica. Ecco, Peppe ci può dire qualche cosa. Abbiamo studiato le nostre pure le primissime tecniche di mixaggio, sì. Proprio quelle basilari, sì. Che poi infatti non, poi andando avanti non ci capisce più niente. Almeno io infatti per oggi i sistemi sono molto molto più evoluti. Il tutto avviene tramite computer, insomma. Comunque il tutto deriva dal Warehouse di Chicago. Ok, perfetto. Quindi chi si domandava, magari era lì quando ascoltava la musica house, perché si chiama musica house, adesso ha una risposta, ecco. Esatto. Questa, oggi non ci siamo dedicati alla vita privata di Peppe, visto? No, oggi no, abbiamo oggi qui appunto Peppe. E neanche, neanche nessuno ci informa della sua vita privata, quindi oggi non possiamo gossipare. Mannaggia, però stiamo finendo la puntata. Noi vogliamo conoscere la i nostri fan, ecco, oltre a conoscere la nostra Serena, dobbiamo conoscere anche i nostri fan. E come ovviamente possiamo conoscerli? Potete inviarci un SMS al 335-5637-251 oppure telefonare allo 0921-923292 o anche ancora collegarvi su Facebook sulla pagina CRM Happy Radio, cliccare mi piace e interagire con anche noi. Anche perché potete sapere pure notizie in anteprima che ancora non sono uscite in altri posti, quindi ascoltateci, ascoltateci perché ci saranno anche altre sorprese in previsione, quindi ascoltateci. Inoltre vi ricordo che non avevo detto prima, il canale di Rai Sport 1 è canale 57. Bravissima, ci siamo informati. Si è documentata. Ecco, ci siamo documentati. Vi hanno chiamato, no, è 57, ok, quindi lunedì pomeriggio collegatevi, connettetevi, non so, mettetevi davanti alla televisione al canale 57. Ma continuiamo con la musica, adesso arriva Antonio Maggio, mi servirebbe sapere. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male dalle. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. E farmi male continuare ad aspettare il tuo continuo andirivieni concettuale. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui. Deciditi. Oh! Ti piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza. In fondo mi è piaciuto, me n'ha dito. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Se vuoi fare un passo avanti devi perdere l'equilibrio per un attimo. E con questa frase Patrizia Curari vi saluta dandovi l'appuntamento per lunedì dalle 9 alle 11 sempre con noi, con me, con Fabio Liberto a CRM Happy Wake Up. E adesso la tua frase finale, Fabio, perché ormai siamo, questa è la nostra conclusione. Esatto, tutti siamo nati matti, qualcuno lo rimane, diceva Samuel Beckett. Ecco. Un saluto anche da parte mia, io sono Fabio Di Liberto, quindi rettifichiamo un attimo il nome. Patrizia, avevi detto Liberto. Scusami. Va bene, lo stesso, ci mancava Di. La D. Va bene. Appuntamento quindi a lunedì, come diceva Patrizia, dalle 9 alle 11 su CRM Happy Radio. Per svegliarsi sempre con il sorriso, un sorriso fatto di musica e anche del caffè.